Letture di Radio 24. L'identikit del lettore vampiro, colui che sviscera un libro fino a farlo diventare sangue del suo stesso sangue. Lo tracciò lo scrittore Saul Bellow, che spiega anche come e dove nasce un vero lettore vampiro. Nel 1991, Saul Bellow, che è stato l'ultimo scrittore serio a usare la parola anima senza che gli scappasse da ridere, dichiarò: «Nella mia gioventù la letteratura era parte integrante della vita, veniva assorbita, assimilata nell'organismo. Non si era conoscitori, esteti, amanti della letteratura. No, con la letteratura si dava forma alla propria vita, era qualcosa che si ingeriva, che diventava parte della propria stessa sostanza, che costituiva la strada verso la liberazione e la libertà piena». Poi Bellow concludeva: «Credo che l'atmosfera di entusiasmo e di amore per la letteratura, ampiamente estesa negli anni venti, abbia iniziato a scomparire nel decennio successivo. Nel 1996 Cinzia Ozick dissentiva leggermente da queste parole di Bellow: «Ogni fervente lettore sceglierà probabilmente il momento della propria giovinezza come l'età dell'oro in cui la letteratura si intesse con l'ordito del mondo. Può darsi che la Ozick abbia ragione, può darsi che a modo suo ce l'abbia anche Bellow. In ogni caso, ciò che importa è che nessuno dei due parla del lettore comune. Senza chiamarlo così, entrambi parlano del lettore vampiro. Cos'è un lettore vampiro? Lo spiega bene Bellow. Non è il lettore che legge per passare il tempo, per divertirsi, e nemmeno per diventare saggio. Tutto ciò è stupendo, però il lettore vampiro non legge per nessuna di queste ragioni. Legge per sopravvivere. In realtà si potrebbe perfino sostenere che, a rigor di termini, il lettore vampiro non legga libri. Li picchia, li accoltella, strappa le loro viscere, ne succhia il sangue, ne ruba l'anima. Non vuole leggere libri, vuole essere i libri. Vuole che i libri letti entrino a far parte, come dice Bellow, della propria stessa sostanza. Di solito questa atroce carneficina è uno spettacolo terrificante e per questo il lettore vampiro cerca di compierla senza testimoni, come se si trattasse dell'atto più intimo della sua vita intima. E per questo di solito il lettore vampiro è anche un pessimo recensore, è troppo assorto a divorarne le viscere per esprimere opinioni su un libro, ma non necessariamente un cattivo critico, anche se, dato che il libro è diventato sangue del suo sangue, è quasi sempre molto difficile distinguere se ciò che dice lo dice del libro o di se stesso. Insomma, questo tipo di lettore legge in realtà soltanto per salvarsi, un verbo che da 50 anni è impossibile scrivere senza che ci scappi da ridere. Quando nasce un lettore vampiro? Come nasce? La mia impressione è che il lettore vampiro nasca nell'adolescenza, che è l'ultima tappa della vita in cui si crede di potersi salvare. Per quanto riguarda il come, le storie sono molto diverse, ma possiedono un denominatore comune: sono quasi tutte ridicole. Anche se me ne vergogno molto, racconterò la mia, con la speranza che il mio esempio incoraggi altri miei simili a uscire dall'armadio. A quell'epoca avevo 14 o 15 anni ed ero nell'ambito delle mie possibilità una persona normale. Ero anche un lettore allegro e fiducioso. Sfortunatamente quell'estate mi innamorai e, tornato a casa dopo le vacanze, avevo solo voglia di impiccarmi alla cupola della cattedrale di Gerona. Fu un momento serio che cercai di superare chiedendo aiuto al libro più serio che trovai in casa, ma ebbi tanta sfortuna che l'eletto risultò essere San Manuel Bueno, Martire di Miguel de Unamuno. Si tratta, come ricorderete, di un romanzo confusissimo e mal scritto, che tuttavia lessi come se ne andasse della mia stessa vita e con il quale mi incasinai tanto che nel giro di un paio di giorni smisi di essere cattolico e mi consegnai all'alcol, al fumo e alle dissolutezze. Non contento, nei mesi successivi lessi tutti i libri di Don Miguel, il che finì di sprofondarmi in uno stato di frenetica mancanza di controllo morale dalla quale non sono ancora emerso. Questa è la mia tragica storia. Temo che quella dei miei simili non sia molto diversa. Naturalmente in seguito abbiamo letto libri migliori di quelli di Don Miguel, ma il guaio era già fatto. Per di più, il povero Don Miguel non ha colpe. Se non fosse stato lui, sarebbe stato un altro, perché quando si succhia il sangue a un libro si vuole soltanto succhiare sangue di libro. È stato un errore? Può darsi. O almeno è questo che pensano quei moderni che si vantano di non leggere romanzi e fanno salti di gioia ogni volta che sentono parlare della fine del libro stampato e ridono a crepapelle per la trappola in cui siamo caduti, noi ragazzi di provincia degli anni 70. Noi che secondo loro ci siamo dati alla letteratura perché non potevamo darci alle cose importanti, alla politica, alla guerra, alla televisione, al cinema, al giornalismo. Noi che, sempre secondo loro, abbiamo creduto che la letteratura servisse a essere più alti, più biondi e migliori. E invece eccoci ancora qui, bassini, scuri e in costante peggioramento. Bellow pensava che la letteratura avesse smesso di contare verso gli anni 30. Ozick pensa che conti ancora, sebbene non come prima. Io francamente non so cosa pensare, ma quello che so è che ci sono ancora in giro lettori vampiro, persone in grado di scommettere tutte se stesse a ogni frase e di giocarsi la faccia a ogni pagina, perché sentono ancora che la letteratura è il miglior modo per far diventare tutto questo più ricco, più complesso, più intenso e più reale. Persone notturne che sopravvivono succhiando sangue altrui, sicure come tutti che non si salveranno, ma più disposte di quasi tutti a vendere cara la pelle, anche se gli scappa da ridere. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Fidatevi, il lettore è un vampiro, di Javier Cercas, dalla Domenica del Sole 24 Ore, in edicola oggi. La campagna elettorale per le elezioni del sindaco di Milano ha mostrato modi completamente diversi di comunicare con i propri elettori. Da una parte, che si affida a un modello più centralizzato, dall'altra a uno più condiviso e non monodirezionale. Ma quanto è cambiata la comunicazione nuova da quella vecchia? Berlusconi parla da 5 televisioni, 3 sue e 2 di tutti. I fan di Pisapia si tengono in contatto con messaggini sui cellulari, cinguettii su Twitter, scambi di opinioni con Facebook. La lotta all'ultimo voto che va in scena a Milano è interessante anche dal punto di vista dei mezzi di comunicazione utilizzati. Si confrontano due tipi di rete. Berlusconi usa la rete a stella, l'emittente è centralizzata. Siamo in un universo tolemaico, Terra al centro e tutto il resto, Luna, pianeti e stelle, gira intorno. Il rapporto è monodirezionale, dal centro alla periferia, da chi emette il messaggio a chi lo riceve. La rete a stella è potente, nessuno dei suoi singoli utenti è in grado di intaccarla, ma è anche fragile. Un guasto al faro lascia tutti al buio. I fan di Pisapia usano una rete multicentrica. Il loro rapporto è pluridirezionale. Non va dall'alto al basso. Procede orizzontalmente a zigzag. Inoltre è un rapporto interattivo. Ogni fan con il suo cellulare o i social network è un piccolo centro ricetrasmittente. Il singolo fan è debole, ma l'insieme è forte. Se una piccola emittente per qualche motivo viene meno, ce ne sono migliaia pronte a subentrare creando percorsi alternativi. Negli anni 60, il governo americano, per rendere la rete di telecomunicazione inattaccabile, creò ARPANET, la nonna di Internet, e lo fece proprio privando la rete di un centro unico e distribuendo il potere tra tanti centri minori interconnessi. La rete multicentrica delle comunicazioni sta trasferendosi nel sociale. In Spagna, Los Indignados ne sono lo specchio. Da noi, qualche tempo fa, decine di piazze dalle Alpi al mare Ionio si sono affollate per difendere la Costituzione. Poi è successo per la scuola pubblica, la dignità delle donne, la ricerca scientifica, l'occupazione. Queste manifestazioni hanno una caratteristica comune. Sbocciano in pochi giorni, persino in poche ore. Non sono organizzate, ma si auto-organizzano. Manca la regia. La diffusione delle idee e dei sentimenti che animano questo fenomeno ha i connotati del contagio. Come avviene che persone geograficamente e socialmente lontane si mobilitino insieme? Paul Erdős, geniale matematico ungherese dalla vita nomade, non ebbe mai una casa, i suoi beni stavano tutti in una valigia, affrontò il problema di stabilire quante strade servono per collegare 50 città. Con 1225 strade la connessione è assicurata. Ma qual è il numero minimo? Erdős ha dimostrato che ne bastano 98. Se aumenta il numero dei punti da collegare, ci sono sorprese. In media, per connettere ciascuno dei 7 miliardi di abitanti della Terra a uno qualsiasi degli altri, sono sufficienti 6 passaggi. Per esempio, un contadino del Brasile conosce il parroco del suo villaggio, che a sua volta dipende dal vescovo locale, il quale è in contatto con qualche cardinale, che ha incontrato il Papa. Tra il contadino brasiliano e Benedetto XVI esistono soltanto 3 gradi di separazione. è la teoria delle reti e la troviamo nascosta sotto le realtà più diverse. Il funzionamento del cervello, il diffondersi delle epidemie, l'imprevedibile successo di un libro, finanza e commerci, mode e fenomeni sociali. Se poi ad accelerare le connessioni interpersonali provvedono internet e telefoni cellulari, che sono reti allo stato puro, il gioco è fatto. Nel 1998 i matematici Duncan Watts e Steve Strogatz, Cornell University, scoprirono che in una rete sono decisivi pochi legami tra punti lontani, distribuiti in modo intermedio tra ordine e caos. Sono questi legami a rendere veloci i rapporti e l'esito può essere esplosivo. Ma pare che i nostri politici sappiano poco di Erdos, Watts e Strogatz. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Nuova e vecchia comunicazione di Piero Bianucci, dalla Stampa di lunedì 23 maggio.